Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani ad una nuova puntata di Salva Danaio. Ricominciamo la settimana e ben trovati allora a tutti. E naturalmente questa mattina non potevamo non trattare ed approfondire un tema del quale si è discusso molto sui giornali in questi giorni, a partire dalla rassegna stampa che è stata molto dirompente, soprattutto venerdì mattina. Allora, partiamo con ordine. Scatta da oggi il blocco per l'emissione delle nuove carte di credito da parte della filiale italiana dell'American Express. Alla società lo ha imposto la Banca d'Italia. Avrete visto la notizia su tutti i giornali in questi giorni. Giovedì è stato reso noto il provvedimento che segue una serie di controlli che hanno dei risvolti giudiziari abbastanza forti, controlli che sono stati effettuati sulla società di carte di credito innestati da un'indagine aperta dalla Procura di Trani e riguarda anche i tassi di interesse applicati alle cosiddette carte revolving emesse da questa azienda. Lo stop all'emissione di nuove carte non revolving, poi lo preciseremo con dettaglio nel corso della trasmissione, in settembre aveva riguardato anche un'altra società, Diners, che però ha fatto sapere che ha già avviato tutte le revisioni e da tempo chieste dalla Banca d'Italia, e si è appreso poi nelle ultime ore che anche il gruppo Fiditalia di Société Générale, che tra l'altro è uno dei maggiori gruppi operanti nel credito al consumo in Italia, è stato interessato a misure sospensive risalenti allo scorso autunno, misure che riguardavano una carta, in particolare Eureka, un provvedimento che è stato poi anche in questo caso parzialmente revocato. Allora, in realtà tre società diverse, finite tutte nello stesso calderone, però in realtà con contestazioni molto diverse mosse dalla Banca d'Italia. Allora forse stamattina abbiamo ritenuto necessario anche organizzare questa trasmissione per fare un po' di chiarezza, per naturalmente cercare di tranquillizzare anche tutti quanti gli ascoltatori, tutti quelli che hanno carte di queste aziende in mano in questo momento possono continuare ad utilizzarle tranquillamente. Il problema in questo momento è soprattutto per American Express, che ha bloccato evidentemente una parte molto importante di business, visto che da oggi non può emettere nuove carte, soprattutto chi magari ne ha già fatto richiesta. In questo momento anche dal call center dell'azienda si sente rispondere picche, non sappiamo né quando potremmo rifarlo. Noi stamattina vorremmo capire intanto su cosa vuole fare luce esattamente Banca d'Italia, quali sono i rilievi mossi che riguardano appunto tre ambiti: usura, parolone, e quindi chiaramente genera anche un po' di timore, antiriciclaggio e trasparenza. Stamattina ci aiuteranno intanto il dottor Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, che è l'azienda, l'associazione italiana che raduna tutte le finanziarie italiane, per cui ovviamente anche il credito al consumo è il suo pane quotidiano. Dottor Piano Mortari, buongiorno, bentornata a Salva Danaio. Buongiorno a lei che ci ascolta. Ovviamente abbiamo interpellato anche le aziende interessate a queste misure della Banca d'Italia. American Express e Fiditalia hanno ritenuto opportuno non intervenire appunto a Salva Danaio. Ringraziamo invece Diners Club Italia, Antonio Calegari, direttore marketing and sales, che ha accettato l'invito di Salva Danaio. Buongiorno, bentornato. Buongiorno e buongiorno ai suoi ascoltatori. Perché gli do il bentornato? Perché il dottor Calegari era già stato ospite di una nostra trasmissione qualche settimana fa, ci aveva spiegato tutta quella grande riforma che è stata studiata dall'amministrazione americana Bush, appunto proprio per il settore delle carte di credito americane, il Credit Card Act, una cosa molto complessa che dovrebbe evitare il tracollo delle famiglie che invece utilizzano negli Stati Uniti in maniera assolutamente spregiudicata il credito al consumo e soprattutto le revolving. Hanno fatto anche là dei danni, ma la continuano senza alcun problema. 800 24 00 24 è il numero verde per gli interventi, le richieste di chiarimento da parte dei nostri ascoltatori. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. La borsa rapidamente, abbiamo già dato qualche indicazione nel giornale radio, ovviamente il piano varato dall'Eurogruppo nell'Eurozona per il sostegno alla Grecia e quindi tutte le modalità dei prestiti bilaterali che sarà necessario attivare appunto per l'economia di Atene, se tra l'altro la Grecia formalizzerà anche la richiesta di intervento, bisognerà vedere. In ogni caso questa situazione stamattina ha dato un po' di fiato intanto all'euro sul dollaro, che ha recuperato la soglia di 1,36, adesso scende di nuovo leggermente, ma siamo intorno a questa quota. Ricordate che a marzo, sulla scia dei timori per un default di Atene, l'euro era sceso ai minimi da 10 mesi, sul dollaro sotto quota 1,33. Le borse sono sulla parità in questo momento, Parigi, Francoforte e Londra, mentre Milano è in netto rialzo, più 0,6%. Direi di andare subito però al tema di stamattina. Ritorniamo sulle vicende che hanno riguardato alcune grandi società del credito al consumo e dell'emissione di carte di pagamento nel paese. Sentiamo un po' che cosa è successo. Carenze rispetto alla normativa antiriciclaggio e alla normativa sulla trasparenza e contro l'usura. Non solo. Applicazione ai clienti di interessi superiori al tasso di usura. Sono queste le contestazioni fatte dalla Banca d'Italia ad American Express Service Europe e che hanno portato l'Istituto di Via Nazionale a disporre la sospensione, da oggi, dell'emissione di carte di credito della società in Italia. Un provvedimento analogo, ma senza nessuna inchiesta penale, a quello intrapreso nei mesi scorsi contro Diners e Fiditalia. La mancanza di controlli, secondo Banca Italia, ha coinvolto in particolare le carte revolving, le carte di credito che consentono di rimborsare a rate il saldo di fine mese e di tassi ad esse applicati, considerati da usura. In particolare sono emerse pratiche scorrette nel calcolo degli interessi di mora, non solo sulle rate non pagate, ma sull'intero credito residuo. In attesa che American Express intervenga per affrontare la situazione, le associazioni dei consumatori, che da anni denunciano la scarsa trasparenza che regna in questo settore, affilano le armi contro le società che emettono carte revolving, studiando una class action per tutelare i clienti che hanno subito danni economici. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Siamo già alle 12:24, fra 4 minuti la prima pausa. Dottor Calegari, Diners Italia. Allora dobbiamo subito chiarire agli ascoltatori che voi non avete revolving a casa vostra. No, abbiamo qualche revolving, non emettiamo nuove revolving da diversi anni. Da diversi anni, quindi non da settembre, da quando è scattata in sostanza il primo accertamento della Banca d'Italia, anzi la prima comunicazione ufficiale di questo accertamento che era già in corso, per no, quello che vi riguardava. Le revolving non le emettiamo da tanti anni, proprio perché trasparenza e correttezza è uno dei nostri principi fondamentali da sempre, dal 58, da quando siamo in Italia con le carte di credito. Le revolving sono sempre stato uno strumento un po' più invece opaco e abbiamo scientemente scelto di starne lontani. Adesso Piano Mortari ci sgriderà subito naturalmente l'utilizzo di questo termine. Che cosa vi aveva contestato all'epoca Banca d'Italia per capire le motivazioni per cui anche a voi aveva portato comunque al blocco in settembre di carte di nuove emissioni? Poi certo anche il tema del averlo fatto sapere in questo momento, anche se le comunicazioni di Banca d'Italia viaggiano sempre con tanti mesi di ritardo, però è un altro bel giallo che sarebbe interessante appurare. Però perché a settembre? Cosa era successo? Ma la Banca d'Italia aveva rilevato alcune necessità di adeguamento dei nostri sistemi informativi e procedure relativi alla normativa antiriciclaggio. È una normativa che si applica a tutte le istituzioni finanziarie e che obbliga le istituzioni stesse a raccogliere in modo molto dettagliato i dati personali, le informazioni anagrafiche delle persone e a tracciare alcune transazioni che possono essere rilevanti poi per la vigilanza della Banca d'Italia per ricostruire eventuali situazioni di riciclaggio di denaro. Quindi un obbligo formale, tecnico, però molto importante, a cui tutti gli istituti finanziari intermediari si devono, le banche anche, devono temperare. Normativa che tra l'altro evolve col tempo. Nel caso di Diners, appunto più di 50 anni di storia, la stratificazione delle informazioni aveva portato a qualche difficoltà. Tenga conto che abbiamo migliaia di clienti che sono con noi da più di 35 anni, quindi 35 anni fa non c'erano neanche i computer, il mondo era molto diverso, e quindi ci sapevamo di questo problema e abbiamo anche già cominciato a risolverlo tecnicamente. Poi la Banca d'Italia, giustamente nelle sue prerogative, ha scelto di insistere. Che in quel frangente, adesso non per difendere Diners perché a Salvadanaio non interessa, però in quel frangente è stato veramente un atto dovuto da parte della Banca d'Italia. Penso di sì. Adesso avete risolto, avete ricominciato regolarmente l'emissione di nuove carte, per cui in sostanza Banca d'Italia non ancora completamente. Ma purtroppo no, abbiamo risolto, nel senso che tutte le questioni tecniche operative che c'erano state segnalate sono state risolte completamente. Due settimane fa abbiamo completamente rinnovato tutti i nostri sistemi informativi, risolvendo questo problema e portando anche tante novità. Quindi sono procedure lunghe, in realtà non è che la Banca d'Italia muove un rilievo e la mattina dopo l'azienda è interessata, è in grado immediatamente di rimuovere tutte le cause che portano i problemi, vuole qualche mese. È un'istituzione pubblica, sono atti formali, le cose vanno fatte bene, con cura. Stiamo preparando tutta la documentazione necessaria a dimostrare che siamo a posto e contiamo che rapidamente la Banca d'Italia ci risponda, appena riceverà la documentazione. Quindi vi devono rilasciare una nuova autorizzazione appunto per ritornare anche ad emettere nuove carte. Peraltro c'era un ascoltatore che scrive, anche se si riferisce ad American Express Standard, è una revolving in scadenza. Sono sospesi anche i rinnovi. Qui vado, anche se ho appena 30 secondi di tempo, poi magari approfondiremo nella seconda parte di Salvadanaio, a Giuseppe Piano Mortari di Assofin. Buongiorno, stop da oggi alle emissioni di nuove carte per Amex, ma questo riguarda anche i rinnovi, tanto per fare un po' di chiarezza, dottor Piano Mortari? Per no, quello che lei ne sa. Riguarda le nuove carte emesse, mentre quelle in circolazione verranno rinnovate automaticamente. Regolarmente. E tra l'altro questo, anche se naturalmente anche in queste ore è naturale che gli operatori dei call center di questa azienda siano un po' in difficoltà, dovrebbe almeno questa essere una risposta che queste persone dovrebbero essere in grado di dare. 800 24 00 24, American Express peraltro ha fatto una pagina di pubblicità su tutti i maggiori quotidiani in questi giorni per rassicurare i clienti, mentre Fiditalia ha assegnato ad una nota per la stampa le precisazioni appunto che riteneva di dover fare, anche perché sono finite sulle pagine dei giornali anche i nomi di alcune carte di quella casa che non erano interessate a questi provvedimenti di sospensione, come per esempio la Coin Card, che invece è completamente operativa. I problemi di Fiditalia sono attinenti a Eureka, che è un'altra un altro tipo di carta per l'appunto. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina affrontiamo doverosamente una questione che è stata ampiamente affrontata da tutti i giornali in questi giorni, come avete sentito anche nella prima parte di Salvadanaio. Allora, scatta da oggi il blocco per l'emissione delle nuove carte di credito per American Express, perché c'è questa serie di accertamenti molto importante che è stata condotta dalla Banca d'Italia, che ha ritenuto opportuno al momento disporre questo provvedimento per Amex. La notizia peraltro è stata diffusa dal bollettino mensile della Banca d'Italia, dal quale si è appreso che nei mesi scorsi anche altre due aziende erano state interessate, anche se per ragioni molto diverse, a provvedimenti appunto cautelativi di sospensione, di blocco di emissione di nuove carte, Diners e Fiditalia. E allora noi stamattina abbiamo rifatto un po' il punto della situazione, perché ritenevamo appunto di doverlo fare. Sono situazioni molto diverse. I rilievi mossi dalla Banca d'Italia riguardano carenze che ricadono in tre profili: usura, antiriciclaggio e trasparenza, ma per le aziende non tutti i rilievi sono dello stesso tipo. Allora, Giuseppe Piano Mortari, direttore operativo di Assofin, ancora buongiorno. So che non è corretto che io le chieda un giudizio o un commento rispetto alle misure della Banca d'Italia, però magari se ci potesse aiutare a capire esattamente, proprio soprattutto sull'aspetto dell'usura, che è quello più delicato, qual è la contestazione mossa ad American Express, perché qua stiamo parlando delle carte revolving che sappiamo mettono a disposizione un finanziamento da parte del consumatore che le sottoscrive, e in definitiva li conosciamo come dei prestiti molto costosi. Quindi tecnicamente ci può aiutare a capire qual è il rilievo mosso a questa grande azienda, che peraltro ha delle carenze di presidi interni che ci ha anche un po' stupito, data l'importanza a livello mondiale di questa azienda? Come mai sono caduti in questa ingenuità in Italia? Ma guardi, io non conosco il testo del provvedimento di Banca d'Italia, quindi non sono in grado di esprimere giudizi sul merito, quindi parlerò in astratto di quello che prevedono queste norme e di che cosa, quali sono le possibili carenze che diciamo possono essere state individuate dalla Banca d'Italia. La normativa in materia di usura, come sappiamo, è stata riformata negli anni 90 e adesso prevede che scatti il reato di usura con il superamento di soglie massime che vengono definite sulla base di rilevazioni che vengono fatte trimestralmente proprio dalla Banca d'Italia, che definiscono dei tassi media e dei tassi medi e quindi dei tassi soglia che non possono essere superati. Queste soglie valgono da un lato per le condizioni dei finanziamenti nelle varie forme tecniche, tra cui le carte di credito revolving, e questo, diciamo, per quello che ho potuto appurare dalle informazioni, diciamo, che sono apparse sulla stampa, la contestazione non riguarda questo aspetto, riguarda casomai le condizioni che possono essere state applicate nel caso di morosità del cliente. Sì, i ritardati pagamenti, quindi. I ritardati pagamenti. Siccome lì il meccanismo è diciamo piuttosto complesso, quando interviene un ritardo di pagamento o una morosità, si possono applicare delle condizioni, delle penali, degli interessi di mora, eccetera, eccetera. Ecco, evidentemente la contestazione di Banca d'Italia, che io ripeto non conosco, nel merito della quale quindi non entro, riguarda possibili carenze in questo ambito. Un'altra carenza che mi pare di aver appurato leggendo le agenzie, ovviamente, ma non il provvedimento, nell'ambito appunto del tema trasparenza, riguarda anche le modalità con cui vengono raccolte le informazioni relativamente ai clienti. In questo caso, quali sono gli obblighi che gli intermediari hanno, piano mortari, e quali potrebbero essere invece stati i temi su cui American Express non è stata molto precisa e puntuale, secondo almeno quanto ha appurato Banca d'Italia? Ma guardi, credo che quella contestazione a cui fa riferimento lei possa rientrare nell'ambito delle carenze in materia di disciplina antiriciclaggio, perché come si ricordava prima, la normativa antiriciclaggio è una normativa applicabile a tutti gli intermediari bancari e finanziari, ma non solo, ormai a molte categorie di soggetti, compresi, faccio un esempio, gli avvocati, i notai, i commercialisti, eccetera, eccetera, prevede l'obbligo, tra l'altro, di registrare in un archivio che si chiama archivio unico informatico i dati della clientela con un livello di dettaglio piuttosto elevato, con una certa articolazione, eccetera, eccetera. Ecco, che è quello che ci spiegava prima anche il dottor Calegari, City Diners. Sì, sì, esattamente. Evidentemente qualche carenza potrebbe essere stata verificata in questo ambito. Io non sono in grado di dire nel dettaglio di che cosa si tratti, né di dire se le sanzioni che sono state combinate da Banca d'Italia siano più o meno proporzionate rispetto alle violazioni. No, perché poi immagino anche il danno reputazionale credo che non sia indifferente. Evidentemente non lo è, e in ogni caso, ecco, la normativa, che è molto pervasiva, molto articolata, e appunto subisce anche delle variazioni continue, perché è stato oggetto di 3 direttive comunitarie nel corso del tempo. Adesso siamo in fase di recepimento graduale di tutti gli aspetti della terza direttiva antiriciclaggio, è piuttosto complessa. La collega del Sole 24 Ore, che ha scritto su questi argomenti in questi giorni, parla proprio di un vero passaporto europeo introdotto con una serie di leggi comunitarie, e comunque l'adempimento di tutti gli obblighi che arrivano anche dall'Europa, poi ci sono i recepimenti naturalmente attraverso la legge italiana. Non è cosa facile, dottor Calegari, anche per voi intermediari, che siete spesso e volentieri dipinti come più cattivi. Il demonio vi chiama, Rosario Trefiletti di Federconsumatori, ma ci rendiamo anche conto che qualche volta sembra che pecchiate di ingenuità, perché insomma, come mai non sono in grado di ottemperare in maniera abbastanza rapida tutto quello che è la normativa in evoluzione? Però non è affatto facile qualche volta. Ma guardi, relativamente al demonio, a me spiace sentire queste cose, perché si demonizza poi un intero settore. In realtà il credito al consumo, e in modo diverso le carte di credito, sono strumenti utili. C'è chi le fa bene, c'è chi forse le fa un po' meno bene, c'è chi è più trasparente, chi è meno trasparente, un po' come in tutte le cose, e non credo che sia utile neanche ai consumatori gettare troppo discredito sull'intero settore, bisogna discernere. Relativamente alla normativa, sì, la normativa è molto complicata, evolve frequentemente e quindi è molto difficile rincorrerla continuamente, richiede continua attenzione, investimenti e modifiche interne, e ogni tanto ci sono degli incidenti, diciamo. D'altra parte si parla di soldi, quindi quando si parla di soldi noi stiamo d'accordo che è importante avere un contesto molto certo, molto chiaro. Certo, d'altronde purtroppo le patologie che sono emerse negli ultimi anni relativamente al settore sono state molte, quindi tutte le autorità competenti hanno eretto molti paletti a difesa dei consumatori, è stato anche giusto, e come dire, la cosa che si può osservare relativamente al tema di cui parliamo questa mattina è che di fatto, anche se non dobbiamo come sempre fare di tutta l'erba un fascio, le modalità di distribuzione purtroppo delle revolving hanno delle anomalie vistosissime, perché insomma, che una persona che magari è già in grave difficoltà finanziaria si veda recapitare a casa l'ennesima carta pronta all'uso con una disponibilità finanziaria non indifferente, è chiaro che questa è una situazione che va sanata. Quindi il tema anche del canale distributivo delle revolving è un tema che credo il sistema debba affrontare seriamente. Fra un attimo chiedo su questi punti un commento a Giuseppe Piano Mortari. La vostra peraltro è una carta premium, quindi anche lì le modalità distributive sono di quelle che arrivano a casa e sono pronte all'uso? No, direi di solito no, perché comunque un contratto deve essere firmato, di solito, anzi sempre, c'è un canone annuale che bisogna essere pagato, quindi è chiaro che è molto, molto trasparente la comunicazione, uno sa molto bene cosa fa. Allora, Alessandro da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a tutte, grazie a Radio 24 per queste trasmissioni che sono interessanti, e soprattutto io sono uno di quelli che ho utilizzato, ahimè, in giudizio mio personale, pessimo, queste carte di credito revolving. Sbagliato anche il nome, perché questo qua si tratta di un vero e proprio finanziamento che viene fatto utilizzando gli strumenti di una carta di credito. È un credito rotativo, in sostanza è un prestito che si rigenera mensilmente, perché si ricostituisce, allora, naturalmente. Guardi, sì, io ho in mano un estratto conto e ho usato la Viola Barclays. Sì. Barclays Card, ho in mano il mio estratto conto. Allora, io poi, lavorando, girando per il mondo, eccetera, non ho avuto poi tempo più di tanto di controllare, anche perché l'operatore che era venuto da me a propone questa cosa è stato presentato da un mio amico e mi fa: guarda, una carta di credito ogni 2 mesi ti viene la debita al posto del mese successivo. No, ma infatti il funzionamento può anche essere molto utile, no? Se non fosse che costano l'impossibile, voglio dire, non è detto poi che il principio sia da demonizzare in assoluto, certo. Adesso la faccio ridere. Sentiamo. Allora, praticamente io mi sono trovato con un debito improvviso, perché vado in giro per il mondo, l'ho utilizzato, eccetera. Vabbè, alla fine mi trovo a lei un debito di quasi 5.000 euro. Mm. Allora, qual era per esempio il finanziamento con cui era partito, che lei conosceva? No, io guarda, non conoscevo il finanziamento, io non mi era stato detto che era una carta di credito stop. Ok. Poi ovviamente ci sono dei contratti che per vederlo, per guardarlo ci vogliono perdere anche le diotrie, perché non lo leggi neanche. Quindi lei pensava di aver sottoscritto una normalissima carta di credito, benissimo. Adesso le spiego i tassi che io ho, vabbè, qua c'è scritto, guardi, allora, io praticamente sto pagando ogni mese 127 euro. Sì. Ok, di cui, vabbè, il tasso annuo è il 18,99. Poi ho interesse applicato 65,93 euro, operazioni varie 85 euro. Cioè, vabbè. Allora, io ho fatto un calcolo. Se io restituisco, mi prendono praticamente, oggi mi trovo dopo anni di pagamento, ho restituito praticamente da 4.800 mi trovo 4.300, 500 euro, una roba del genere. Se a me tengono un 30 euro da questa rata, vuol dire che io pago annualmente circa un 300 euro, li do a questa Barclays benedetta. In 10 anni sono 3.000 euro, in 14 anni dovrei riuscire a estinguere il debito. Però ho fatto il calcolo, se io mi tengo 85 euro ogni mese, io alla fine di tutta la restituzione dei 14 anni, gli arrivo a dare 18.000 euro. Cioè, Sì, allora adesso ho fatto un po' fatica anche a ricostruire i parametri, però abbiamo già capito, insomma, intanto siamo proprio veramente al limite del tasso massimo che può essere applicato. Giuseppe Piano Mortari, allora io adesso saluto Alessandro, abbiamo capito il nocciolo della sua questione e mi pare di capire che dobbiamo subito partire dalla prima cosa che balza all'occhio affrontando questo caso. Perché si deve pensare di sottoscrivere una carta di credito e invece stiamo sottoscrivendo un contratto di finanziamento? Ma intanto nel contratto che che Alessandro ha detto di aver sottoscritto, ovviamente deve essere chiarito il funzionamento. Esatto, però lì, insomma, ci si fida del promotore, lì si fa una chiacchierata. Certo, Alessandro avrà fatto male, non ha letto bene il contratto e magari poteva anche prendersi una settimana di tempo prima di sottoscriverlo. Però no. Perché questo promotore deve insistere? Dice: no, stai tranquillo, è una carta di credito come tutte le altre. Ecco, ma soprattutto se Alessandro riteneva e ritiene di dover utilizzare la carta come una carta a saldo, il problema non si pone, perché se lui, voglio dire, ha utilizzato la carta per fare acquisti per 3.000 euro e ritiene di dover saldare tutto il mese successivo, lo può fare liberamente, la carta revolving lo prevede sempre questa possibilità, quindi dovrà pagare evidentemente soltanto il capitale residuo e gli interessi maturati in quel mese che sono intercorsi nei quali ha utilizzato la linea di credito. Quindi il conteggio lui l'ha fatto sulla base della rata minima, che è quella prevista contrattualmente, certo. Ma non è obbligatorio pagare con quella rateizzazione, si può saldare tutto il mese successivo esattamente come se fosse una carta, diciamo, charge, cioè con addebito il mese successivo. Quindi gli interessi si pagano soltanto se si vuole differire il rimborso della rata. Come mai per questi prestiti, Piano Mortari, i tassi di interesse sono così alti? Sono perché gli importi sono molto contenuti. Io solito problema. Se posso fare un esempio numerico brevissimo, che faccio, diciamo, quando ho occasione di parlare di questo argomento in qualche caso. Allora, la transazione media fatta una carta revolving, e do un'informazione, è di 150 euro. Allora, se io faccio una transazione da 150 euro e rimborso in 3 rate da 50 euro mensili, chiedo ai miei interlocutori, quando parlo di queste cose, qual è un costo ritenuto accettabile per questo servizio. Cioè, la quarta rata, posto che le 3 da 50 euro mi consentono di rimborsare il finanziamento che ho ottenuto, la quarta rata, quanto è accettabile che sia? La risposta media che ricevo è intorno ai 15 euro. Bene. Se io applicassi 15 euro alla quarta rata, avrei applicato un TAEG del 70%. Invece con 5 euro applico un TAEG del 21%. Quindi di questo stiamo parlando. Una transazione media da 150 euro in 4 mesi sì, mi capisco, costa 5 insomma, euro. L'importo in assoluto è molto basso, in termini percentuali invece fa, come dire, un po' balzare moltissimo sulla sedia. Esattamente, esattamente. Allora, qua sicuramente una questione della quale torneremo a parlare più avanti. Dottor Calegari di Diners Italia, abbiamo avuto un po' l'impressione, anche per le modalità con cui è uscita la notizia in questi giorni, è chiaro che i giornalisti hanno enfatizzato molto l'aspetto che tutte le aziende interessate, queste tre, siano state interessate a blocchi dell'emissione delle carte, anche se, come abbiamo precisato, per voi il provvedimento era di settembre, avevate già ottemperato a quasi tutte le richieste che Banca d'Italia vi ha fatto, così come è successo per Fiditalia. Anche se sul tema di Fiditalia c'è il tema dell'abbinamento dell'assicurazione al finanziamento, che è molto interessante, se riesco con Piano Mortari vorrei andare anche a quel punto. Per Amex invece il blocco di questo mese si parte da oggi. Secondo lei Banca d'Italia rende note le sue comunicazioni con molto ritardo rispetto a quando appunto i provvedimenti li prende, ma abbiamo avuto anche un po' la sensazione di una grande azione di persuasione un po' per tutti gli attori del sistema, almeno io personalmente. Secondo lei è stato anche un po' colpire pochi per colpire tutti, insomma, volete o no mettervi in testa che dovete agire dando le massime informazioni, la massima trasparenza possibile a tutta la clientela? Insomma, qual è la lezione che si può trarre da questa vicenda? Le chiedo di, come dire, di venire da quest'altra parte della trasmissione per dare qualche indicazione pratica anche ai nostri ascoltatori. Ma non le so rispondere sulle intenzioni della Banca d'Italia, ovviamente che è un'istituzione comunque molto rispettata e molto prestigiosa, quindi lungi da me da poter commentare su questo. Sicuramente Banca d'Italia sta dando dei segnali forti, io posso commentare per quel pezzetto delle cose che sono uscite in questi giorni che riguarda anche noi, cioè che l'adeguamento alla normativa antiriciclaggio sicuramente ha dato un forte segnale a tutti gli operatori del mercato che si aspetta un grandissimo rigore a questo riguardo. Io, perché siamo in questa trasmissione, ci tengo magari a ribadire ai suoi ascoltatori che è una cosa che non li riguarda direttamente, se non quelli dei quali noi o gli altri non avevamo le informazioni, quindi gliele stiamo chiedendo, gliele abbiamo chieste quest'anno, quindi prego tutti per quelli esempio, che ricevono quindi adesso lettera. Che nuove informazioni state chiedendo ai vostri vecchi clienti, proprio perché Banca d'Italia vi ha chiesto queste precisazioni? Ai clienti individuali, quindi sì, non alle aziende, abbiamo chiesto semplicemente di avere copia della carta d'identità e del codice fiscale. Quindi insomma e di alcuni... anche niente di no, che, non è una cartella clinica piuttosto no, che... No, assolutamente, ci mancherebbe. Però ripeto, clienti di 40 anni fa qualche volta non si aveva tutte le informazioni necessarie. Quindi questo è l'unico disturbo, diciamo, che questa vicenda può dare a un cliente normale. Invece è un'attenzione delle società e della Banca d'Italia a loro protezione, perché questo permette un sistema finanziario molto trasparente, pulito, controllato. Quindi, no, quindi insomma, anche, siamo stati vittime che... ma capiamo l'intenzione. Quando la banca ci chiama magari per chiederci queste informazioni, molti si spaventano pensando a chissà che cosa. Insomma, in questo caso, se siete clienti Diners e dall'azienda vi chiamano per questa documentazione, sappiate che... Aiuta, se vuole aggiungere qualcos'altro. Sì, sì, le volevo dire, ecco, su questo sì, rispondeteci, abbiate fiducia, ma sempre con molta attenzione, perché è raro in Italia, è molto ben contrastato, ma il cosiddetto furto d'identità è una cosa che succede e la telefonata che arriva all'improvviso potrebbe anche essere. Fate qualificare profondamente l'interlocutore che vi sta chiamando. Tra l'altro è un tema che vogliamo affrontare in settimana, perché c'è un altro grande convegno di Adicon. Insomma, su questo argomento noi abbiamo un amico, Salvadanaio, che è il colonnello Umberto Rapetto della Guardia di Finanza, che è uno dei massimi esperti del settore e ci istruisce sempre a dovere su questo argomento. C'è un'ascoltatrice che ci scrive: a me è successo con la Conad, credevo fosse come quella dell'Esselunga, quindi una fidelity card, una carta di fedeltà, era una carta di credito. E io però voglio dire, adesso stiamo anche attenti, perché un conto è sottoscrivere una carta che ci dà la possibilità di accumulare punti per avere dei premi. La carta di credito ha scritto sopra o Visa o Mastercard o altro, quindi non facciamo gli ingenui proprio come se fossimo quelli che vengono da chissà quale pianeta. Allora, abbiamo ancora qualche... Dottor Piano Mortari, un'ultima cosa, prima di andare anche alla nostra pillola del risparmio gestito. Tra le proibizioni che hanno riguardato Fiditalia, ancora vigenti perché qualcuna è stata revocata dalla Banca d'Italia, c'è quella appunto di abbinare prodotti assicurativi a finanziamenti di importi pari o inferiori a 2.000 euro di durata, pari o inferiori a 18 mesi. Cioè, per piccoli finanziamenti anche va di moda, come dire, applicare una polizza assicurativa? O è uso delle società finanziarie? Allora, le polizze assicurative sono proposte un po' su tutti i finanziamenti al consumatore e lo tutelano da una serie di possibili eventi, e cioè se io ho degli eventi negativi, quali il peggiore evidentemente la premorienza, ma anche un incidente o la perdita del posto di lavoro, posso, stipulando delle polizze, fare in modo che i miei eredi non subiscano le conseguenze di questo evento. Quindi non deve essere un obbligo intanto, ma una facoltà del sottoscrittore del contratto? Deve essere una facoltà, diversamente diciamo la normativa prevede espressamente che nel caso in cui sia un obbligo il relativo costo deve finire nell'indicatore del costo complessivo che è il TAEG. Quindi evidentemente se è arrivata questa contestazione a Fiditalia forse c'era anche qualche imprecisione nella comunicazione su questi punti. Allora, purtroppo la trasmissione è giunta al termine, ci sarebbero state tante altre cose da raccontare, ma noi abbiamo adesso la nostra pillola del risparmio, sempre in questo percorso che stiamo facendo in vista del Salone della Gestione del Risparmio previsto e organizzato da Assogestioni per la fine di questo mese, 21, 22, 23 aprile a Milano. La parola del risparmio che abbiamo scelto oggi è asset allocation, diversificazione. Radio 24 e Assogestioni vi presentano le parole del risparmio. Qual è la migliore strategia di investimento? Questa è una delle prime domande che ci si pone quando si decide di investire il proprio patrimonio nel mercato finanziario. La risposta non è ovviamente univoca, ma di certo per cominciare è necessario conoscere un concetto tanto semplice quanto fondamentale, sintetizzabile in un'unica parola: diversificazione. Nella scelta del proprio portafoglio di investimenti è infatti molto saggio saper scegliere diverse attività finanziarie in cui investire il proprio patrimonio. Saper scegliere quindi quanto dei nostri soldi viene investito in titoli obbligazionari, quanto in titoli azionari e quanto in prodotti di liquidità. Una maggiore diversificazione del proprio portafoglio permette quindi di non mettere nella stessa cesta tutto il capitale disponibile e di non rischiare troppo in caso di perdite. L'asset allocation consiste quindi nello scegliere diversi prodotti finanziari per il proprio portafoglio. Non esiste però una regola standard per poter determinare la migliore asset allocation in assoluto. È quindi importante ponderare bene tutte le proprie scelte di investimento e, se necessario, rivolgersi a gestori professionali. Salone del Risparmio a Milano dal 21 aprile. Iscriviti gratis a salonedelrisparmio.it. Vi ha presentato le parole del risparmio. Devo chiudere in maniera telegrafica. Grazie ad Antonio Calegari di Diners Italia. Grazie a voi. A presto e presto anche a Giuseppe Piano Mortari di Asso. Fine buona grazie giornata. Grazie. Allora, volevo solo chiudere ricordando agli ascoltatori che hanno una carta American Express e continuate ad usarla senza problemi. Il blocco riguarda le nuove carte. La società non può emetterne a clienti nuovi. Per chi le ha le può continuare ad utilizzare, quindi non parliamo di un blocco a 360 gradi di chi le ha. Assolutamente. State tranquilli. Per il resto l'azienda speriamo che chiarisca presto le sue posizioni con la Banca d'Italia. A domani!